Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dall'incontro che Mario Draghi ha tenuto a Francoforte, quindi il Presidente della Banca Centrale Europea, con i principali gruppi bancari europei, 15 gli italiani presenti, tra cui i numeri uno di Unicredit, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi e il Banco Popolare, per illustrare alle banche, alle principali banche europee, come si realizzerà l'unione bancaria, quindi il passaggio per i principali istituti alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea, e anche come verranno rivalutati gli asset, cioè alcune voci in bilancio, per spiegare i criteri. Comunque attenzione, perché l'unione bancaria porterà a un meccanismo unico di salvataggio nel caso di un fallimento bancario. E il modello è quello di coinvolgere gli azionisti a pagarne le conseguenze, gli obbligazionisti subordinati e i correntisti sopra i 100.000 euro. Questo prima che intervenga poi il singolo Stato o l'Unione Europea. Per cui attenzione, che alcuni salvataggi che abbiamo visto nel passato, anche a casa nostra, devo dire, penso al Monte dei Paschi, ma penso a Commerzbank e ad altre banche tedesche, francesi o franco-belga, non saranno, da quello che capiamo, più possibili in questi termini. Sarà più un modello Cipro, se qualcuno se lo ricorda, cioè pagano gli azionisti, pagano gli obbligazionisti e i correntisti sopra i 100.000 euro. Questo per quello che riguarda il tema di apertura. In realtà il tema grosso di questa puntata riguarderà di nuovo i costi, non della politica ma della pubblica amministrazione in generale, in cui voglio inserire anche la politica. Perché? Perché da un lato l'economista Roberto Perotti, che sarà nostro ospite, ha realizzato uno studio sui costi della politica regionale, tema su cui ci eravamo già molto concentrati, e anche il quotidiano Sole 24 Ore l'ha fatto nei mesi passati, la stima dei costi totali di quanto costa la politica nelle varie regioni italiane. Beh, partendo dall'esame dei bilanci dei consigli regionali per il 2012, poi spiegheremo anche il metodo, complessivamente i consigli regionali costano 1 miliardo di euro l'anno, ossia quasi quanto la Camera dei Deputati, che spesso viene indicata come costo eccessivo. È a ragion veduta. I compensi lordi ai consiglieri sono circa 230 milioni di euro, poi si spendono 170 milioni di euro per pensioni e vitalizi, e i contributi ai gruppi consiglieri sono 100 milioni di euro. Ma ci sono delle differenze enormi da regione a regione, perché se la spesa media per consigliere è di 200.000 euro l'anno, mi sembra un po' tanto, si passa dai 118.000 euro dell'Emilia ai 240.000 euro del Piemonte, ai 270.000 euro all'anno per ogni consigliere del Lazio, fino ai 280.000 euro della Calabria. Ora sfido chiunque di voi a dimostrarmi che il lavoro del consigliere calabrese o laziale o piemontese sia talmente più intenso e soprattutto efficace e produttivo da valere il doppio del consigliere emiliano. Questo giusto per capirci. Ma ne parleremo nella seconda ora, a cavallo tra la prima e la seconda ora, anche perché oggi è intervenuto sulla spending review, sui tagli, la riduzione dei costi della spesa pubblica, lo stesso commissario straordinario Cottarelli. Ma vorrei riprendere anche l'appello vero e proprio lanciato sulle prime pagine del Sole 24 Ore dal direttore napoletano domenica, perché era un invito al Presidente del Consiglio Letta ad ascoltare il Paese, ad ascoltare la parte produttiva, e lo dico in estrema sintesi, poi ne parleremo, a fare sì che il 90% delle risorse che vengono recuperate dalla spending review, quindi da una diminuzione della spesa pubblica e dalla lotta all'evasione, vadano a ridurre il cuneo fiscale, tema su cui il governo un po' si è perso, perché quello che abbiamo visto sono veramente briciole. E quindi le tasse in busta paga, elemento questo prioritario anche rispetto al debito, secondo l'editoriale di Roberto Napoletano, perché è chiaro che finché il PIL italiano non riparte, noi continueremo ad avere un debito e un deficit anche non gestibili. Il debito e il deficit sono infatti un rapporto, non sono un valore assoluto, lo spieghiamo molte volte. Quindi se il denominatore è il PIL, cresce il denominatore in automatico, si abbassa il rapporto debito su PIL. Se tu invece non fai crescere il denominatore, il PIL, tu puoi ridurre il debito quanto vuoi, ma resterà sempre a un livello troppo alto. Questo è un po' il principio, e anche di questo parleremo, ripeto, nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, c'è chi mi contesta già e dice quello al Monte dei Paschi non è stato un salvataggio, si informi, si documenti. Ma insomma, non so, come vogliamo chiamarlo? Bruno? Mario? Non so, adesso con massimo rispetto per il Monte dei Paschi, per l'attuale gestione soprattutto, nel momento in cui una banca riceve 4 miliardi di prestito, poi convertibile, attenzione, perché se non riesce a essere ripagato il tesoro diventa azionista del Monte dei Paschi. Come lo vuole chiamare lei? Cioè, se io vado in banca e dico che non ce la faccio più andare avanti con la mia attività e la banca mi presta 400.000 euro, mi ha salvato o no? Non so, ma se poi ce la faccio andare avanti e ripartire l'attività, mi ha salvato la banca, grazie, l'aiuto della banca. Comunque, il tema importante non era la definizione nominale, nominalistica, di quello che è stato fatto al Monte dei Paschi di Siena. La definizione importante è capire come si muoveranno adesso, quando ci sarà il sistema bancario unico in Europa, gli eventuali salvataggi per banche in difficoltà. Ci arriviamo tra un minuto. Volevo dare però la borsa: meno 0,30% Milano, più 0,50% Parigi, più 0,90% Francoforte, più 0,30% Londra. L'America, nel giorno in cui anche il Dow Jones va a nuovo record, il Nasdaq tocca un livello, scusatemi, che non vedeva dal 2000. Il Nasdaq è l'indice dei titoli tecnologici e fa il paio con il Dow Jones, ricordate, la settimana scorsa l'abbiamo commentato, sopra i 16.000 punti. Ebbene, oggi è la volta anche appunto del Nasdaq, che non vedeva il livello che ha toccato poco fa, dal sostanzialmente dal aprile del 2000. Il Dow Jones è ancora stabilmente oggi sopra i 16.000 punti, da settembre del 2000 per la precisione. E sulla stabilità come non valore in sé, ma stabilità se si fanno le riforme oggi, interviene anche il Wall Street Journal, che dice: attenzione, l'Italia rischia di arrivare ad una stabilità simile a quella di un cimitero, se lo chiede. Cioè, quando facciamo la battuta, un conto è il rigore, un conto è il rigor mortis, riferita alla Germania, che a forza di rigore qua ci restiamo. Beh, il Wall Street Journal si chiede se la stabilità italiana non sia la stabilità di chi è fermo, di chi è, diciamo, tra virgolette, defunto, anche se ammette che l'Italia ha fatto più progressi di ogni altro paese nel ripianare il proprio bilancio, ma ha bisogno di riforme perché l'attuale governo non le riesce a portare avanti, perché appare paralizzato. Stabile non vuol dire immobile, mettiamola così, no? Uno è stabile se fa le cose, va avanti, dà continuità, equilibrio. Immobile vuol dire che non cambia niente. Allora, mamma mia, ancora vedo molti messaggi. Adesso andiamo avanti però con le altre notizie. Il prossimo Consiglio dei Ministri, ve l'ha già ricordato il nostro GR, quello che ha tra le altre cose all'ordine del giorno l'abolizione della seconda rata dell'IMU, si svolgerà immediatamente dopo il voto di fiducia sulla legge di stabilità, quindi o martedì o mercoledì. Nel frattempo la Corte dei Conti lancia un allarme sulle compensazioni fiscali, perché dice: attenzione, nonostante la stretta, restano le condizioni per mantenere forme trasgressive, con il rischio di riduzione del gettito. E la perdita, in passato la perdita è valutabile intorno a 10 miliardi di euro. E del problema aveva preso atto anche il governo nel 2010, modificando la normativa. Dalla Corte dei Conti arrivano anche dei suggerimenti, perché appunto il rischio vero è che qualcuno faccia il furbo con le compensazioni e cali di parecchi miliardi il gettito atteso dallo Stato. Per quello che riguarda la spending review, Cottarelli oggi ha detto: attenzione, non credo che dobbiamo aspettare il 2015 Nel 2014 c'è già la possibilità di ridurre gli sprechi e ridurre la tassazione, speriamo. E sugli assegni d'oro ha già incontrato il ministro welfare Giovannini. Buona la notizia dell'export italiano fuori dall'Europa. Anche ottobre più 0,8% su settembre, con un aumento anche su base annua, cioè rispetto all'ottobre di un anno fa, dell'1,5%. Però il saldo resta positivo perché continuano a calare fortemente le importazioni, meno 8%. Adesso passiamo alle banche, all'idea che ha dell'Unione Bancaria Europea Mario Draghi. Faccio solo notare una cosa: una volta avevamo la rubrica "Ma cos'è questa crisi?", poi le rubriche anche noi le cambiamo, le aggiorniamo, le alterniamo. Però sarebbe andata proprio dritta dritta in quella rubrica la notizia che a Milano le domande per fare lo spalatore della neve, che voglio dire 2-3 giorni di lavoro all'anno, insomma, a seconda della neve, speriamo 2-3 giorni di lavoro, non di più, hanno toccato quota 3.400, vuol dire il 25% in più rispetto al 2012. Sono tutti, quasi tutti italiani quelli che hanno chiesto di fare lo spalatore di neve, l'85% in totale. Molti giovani si guadagnano con un voucher dell'INPS 75 euro netti oppure 90 euro se si dovesse lavorare di notte, ma un quarto degli aspiranti sparatori ha più di 40 anni. In tutto si cercano appunto 7.000 persone, ma ripeto, le domande già pervenute sono aumentate del 25% rispetto al 2012. (349) 238 6666 per i vostri sms. La borsa, mi fate notare i titoli, avete ragione. Bene oggi Tod's più, è tutto il lusso, più Tod's più 4,35%, Ferragamo più 4. Più distaccato invece il rialzo di ST Microelectronics più 1,30, Exor più 1,1, Snam più 1% come Azimut. Male oggi il Monte dei Paschi, continua a peggiorare, ha avuto problemi anche a fare prezzo questa mattina, meno 7%, il Banco Popolare meno 4,60, UbiBanca meno 3,30, Popolare Milano meno 2,50, UniCredit meno 0,70, male anche Fiat, perde il 3,30% e Mediaset l'1,70%, quindi deboli oggi le banche, soprattutto Monte dei Paschi e Banco Popolare, i cui vertici hanno incontrato fino a poco fa appunto il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Allora parliamo di questa Unione Bancaria Europea che riguarderà 15 banche italiane, cioè le prime 15 per grandezza banche italiane. Allora, Mario Draghi ha voluto illustrare le modalità con cui si realizzerà questa unione bancaria, passaggio a vigilanza unica, revisione degli asset, e ha lanciato, lo ricorderete nei giorni scorsi, ripetuti appelli affinché si arrivi il prima possibile alla costituzione di un'unione bancaria europea, con annessa vigilanza unica e meccanismo unico di salvataggio, in modo che ci sia un unico controllore per le principali banche dell'area euro, la BCE, e non la Banque de France per la Francia, la Bundesbank per la Germania, la Banca d'Italia per l'Italia e via così. E poi che il meccanismo con cui salviamo queste banche non venga deciso di volta in volta, se una volta è cipriota in un modo, se è italiana in un altro, se è tedesca in un altro, ma il meccanismo sia unico e chiaro per tutti. Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, due elementi. Chi sta ponendo o opponendo più resistenza per far decollare il sistema bancario unico? E poi mi chiedono molto gli ascoltatori di precisare che cosa prevederà esattamente il salvataggio, diciamo, nel caso di crack o di crisi di una banca dell'area euro, secondo il piano messo a disposizione da Mario Draghi, che sarà, io ho chiamato quasi un modello Cipro, ma ho voluto fare una forzatura. Prego Alessandro. Allora, la seconda domanda non possiamo ancora rispondere, nel senso che in Europa ne stanno ancora discutendo e presumibilmente non ce la faranno a trovare una soluzione prima della fine di quest'anno, si andrà forse all'inizio dell'anno prossimo, e c'è il rischio poi che si sciolga il Parlamento europeo prima di poter approvare questa legislazione, quindi è ancora tutto molto nebuloso come avverrà il futuro salvataggio delle banche europee. Chi per il momento fa la solita azione di retroguardia sono i tedeschi, i quali dicono per arrivare a un meccanismo unico, i tedeschi naturalmente sempre preoccupati che alla fine siano loro a dover tirare fuori i soldi, un meccanismo unico deve passare attraverso una revisione dei trattati europei e questo richiederà tempo. Nel frattempo, dicono in Germania, dice il governo tedesco, andiamo avanti con un network delle autorità nazionali, quindi mettiamo assieme le autorità che hanno fatto fino adesso queste operazioni in una rete, in un network, però ognuno sarà responsabile dei problemi delle sue banche. Quello di cui si è discusso oggi invece tra Draghi e le banche, non solo italiane ma anche di altri sei paesi, era il terzo incontro di una serie, ultimo di una serie, in cui Draghi ha spiegato come si arriverà invece alla vigilanza unica, che è un pilastro invece già concordato dell'Unione Bancaria, cioè la BCE avrà la responsabilità di tutte le banche europee e in particolare delle 128 più grandi, di cui fanno parte 15 banche italiane. I rappresentanti di queste 15 banche erano alla BCE oggi, anzi stanno uscendo in questo momento dall'Eurotower, e Draghi e i suoi collaboratori hanno spiegato loro come avverrà questo processo nei prossimi 12 mesi di trasparenza sui bilanci, perché la BCE, prima di assumere la vigilanza, vuole sapere di che cosa si dovrà occupare, quindi vuol fare trasparenza e pulizia nei bilanci delle banche, sperando anche che questo poi serva a rilanciare il credito e quindi a dare un po' di spinta alla ripresa. Ecco, tu ricordavi che c'è una resistenza tedesca, io la trovo un po' paradossale, perché tra l'altro la Germania ha avuto banche in difficoltà tanto quanto altri paesi, uno se l'è salvata in casa, diciamo così, ma in secondo luogo non è vero, cioè noi siamo dei contribuenti molto attivi come Italia nel piano di salvataggio europeo, per cui non è vero che tutto verrebbe caricato ai tedeschi, ci mancherebbe. Detto questo però, quindi il modello che ho chiamato cipriota, che vengono coinvolti in caso di crack di fallimento bancario, prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, poi i correntisti sopra i 100.000 euro, non è ancora, diciamo, ufficiale, mettiamola così. Alessandro, abbiamo problemi di collegamento con Francoforte. Intanto, mentre riprendiamo la linea con Alessandro Merli, mi chiedete molto di Monte dei Paschi di Siena. Il mercato teme l'aumento di capitale a sconto del 40% in questo momento sul prezzo dell'ex diritto, poi ne parliamo tra un minuto. Vedo molti messaggi sugli sparaneve, non ne possiamo parlare di sparaneve, no, mi interessano invece i messaggi sulla posizione tedesca. Ripeto, attenzione, perché i tedeschi hanno avuto problemi con qualche banca e se la sono salvata in casa. Il punto vero è che è difficile avere una moneta unica senza una supervisione bancaria unica, o io aggiungo anche una BCE che possa stampare moneta. Comunque, di nuovo con noi in collegamento da Francoforte, Alessandro Merli. Alessandro, dicevo, sul modello di salvataggio ancora non abbiamo certezza invece, cioè il coinvolgimento di azionisti, poi obbligazionisti e poi correntisti. Beh, diciamo che c'è un modello sul quale in Europa ci si è messi d'accordo, che dovrebbe partire dal 2018, però a questo punto la BCE, assumendosi l'incarico della vigilanza unica, sta cercando di far anticipare i tempi in modo da averlo in piedi per il 2015, però su questo c'è ancora molta discussione in Europa e soprattutto c'è discussione sul fatto di chi debba avere poi la responsabilità di questi salvataggi bancari, e su questo assolutamente non c'è accordo, perché i tedeschi vorrebbero che restasse in mani nazionali, la BCE e la Commissione europea spingono invece perché ci sia un'autorità unica a livello europeo, anche per evitare i problemi che ci sono stati in questi anni, dove i paesi hanno proceduto un po' in ordine sparso e i disastri bancari ce ne sono stati parecchi anche in Germania. Eh sì, quello che citavo anch'io come più di un caso anche in Germania. Mentre ringrazio Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte, però ricordo che due o tre giorni fa il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine di un convegno a Parigi, ha detto che bisogna proseguire verso l'unione bancaria e farlo seriamente, di vigilanza unica della Banca Centrale Europea sulle banche italiane e di unione bancaria. Si è parlato in questi giorni anche a Ravenna, durante il convegno forum organizzato con la stampa italiana, dall'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana. La nostra Deborah Rosciani, che appunto era presente come rappresentante di Radio 24, ha intervistato il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, chiedendogli innanzitutto se saranno le banche a finanziare la soppressione dell'IMU, visto che poi ci sono anche questi temi di legge finanziaria, e da quello che stiamo capendo il governo pensa ad un acconto IRES ben più pesante del previsto per il mondo bancario, e poi però ha ragionato con lui anche di Unione Bancaria Europea. Io non l'ho capita proprio così e non la gradisco molto, nel senso che bisogna vedere la manovra come sarà definita, e se i sacrifici venissero chiesti solamente alle banche e alle assicurazioni sarebbe una follia e sarebbe controproducente anche alle imprese, perché se si sottraesse liquidità cospicua alle banche non verrebbe sottratta soltanto alle banche, verrebbe sottratta alle imprese, che non riceverebbero più prestiti per quella liquidità che le verrebbe sottratta. Il Presidente del Consiglio Letta vuole invertire la rotta del debito pubblico e dice che il tasso del BTP a 10 anni al 3% è la soglia idonea per rendere il Paese meno vulnerabile. Letta sta facendo le cose giuste e le banche condividono questa impostazione, anche quella delle privatizzazioni. Il Presidente del Consiglio ha innanzitutto il merito nell'aver indicato questo come obiettivo. È il primo Presidente del Consiglio da tanti anni che indica nella riduzione del debito pubblico, non in una limitazione della crescita, nella riduzione, l'obiettivo strategico. È l'obiettivo strategico vero, perché se si ridurrà il debito pubblico si metterà in moto una concatenazione di effetti positivi, il cui ultimo, ma non lontanissimo, sarà la riduzione delle imposte per far fronte ai costi del debito pubblico. Le banche italiane, Presidente, sono pronte a passare sotto la vigilanza europea dell'anno prossimo, perché qualcuno parla di perdita di sovranità, problemi di gestione del rapporto con il territorio, l'Italia e l'Unione Europea. Che opportunità e che rischi? Le banche italiane si stanno preparando in maniera molto seria e consapevole e contano che vi siano delle regole davvero identiche per misurare il funzionamento delle banche nel mercato unico europeo. Regole identiche, non difformi, per essere esattamente valutati e vigilati bisogna anche poi che vi sia una applicazione identica, quindi avere nella BCE colei che emana le regole e le applica identiche, penso che sia un grande passo per le banche italiane, che sono state severamente e molto seriamente vigilate in questi anni dalla Banca d'Italia, che dobbiamo riconoscerlo è stata molto lungimirante anche in proposito. Le banche sono molto interessate a salvare le imprese, perché salvando le imprese salvano l'occupazione e anche i quattrini che hanno prestato alle medesime imprese, però lo sviluppo riprenderà davvero quando riprenderà un circuito virtuoso di investimenti nuovi, sia italiani sia esteri, e per questo bisogna smettere di alzare le tasse e di spaventare i mercati internazionali ipotizzando sempre nuove tasse. Bisogna dare certezza del diritto e innanzitutto favorire l'ingresso in Italia di nuovi capitali internazionali. Tra i temi sollevati a Ravenna anche quello dell'uso ridotto degli strumenti di pagamento elettronici da parte degli italiani. Lei ha usato un concetto molto chiaro: si parla male delle banche, ha detto, quando si appartiene a Nerolandia. Cosa vuol dire? Sicuro, nel senso che assieme all'enorme debito pubblico, l'altra forte palla al piede che l'Italia produttiva e civile ha è quella di Nerolandia, di una economia più o meno sommersa, troppo diffusa e con troppa complicità diffusa, ovvero sia vi è un'eccessiva abitudine alla puzza e anche a comportamenti trasgressivi su piccole cifre. C'è bisogno di una impennata di etica, una forza di volontà e una consapevolezza più diffusa da parte di tutti, a cominciare da una educazione civile nelle scuole, da una educazione civile nei mezzi di comunicazione, a cominciare dal servizio pubblico radiotelevisivo, e un impulso decisivo per far sì che questa Italia diventi più civile e che coloro che debbono pagare le tasse le paghino e coloro che ne pagano tante abbiano la possibilità di confidare che questo livello di pressione fiscale sugli onesti così oneroso possa perfino incominciare a calare. Nerolandia, dice il presidente dell'ABI Patuelli, una terra fatta sul nero. Sì, però visto che siamo sul tema fiscale, oltre che Nerolandia, questa è anche Neurolandia, perché è un paese in cui si impazzisce. Lo dico perché oggi sono andati in tilt tutti i computer, i siti web per essere precisi, dell'Agenzia delle Entrate, problemi tecnici della SOGEI che ha assicurato che li risolverà. Comunque non è possibile accedere al momento al sito internet dell'amministrazione finanziaria nel chiamare i call center. Per lo stesso motivo l'attività di assistenza degli uffici è fortemente limitata. La SOGEI ha assicurato all'Agenzia delle Entrate che risolverà tutti i problemi quanto prima. Sarà cura dell'Agenzia delle Entrate informare i cittadini della ripresa di tutti i servizi in un periodo in cui le scadenze fiscali sono importantissime. Poi mi chiedo come farà l'Agenzia delle Entrate a far sapere a tutti i cittadini. Lo metterà sul sito, immagino. Comunque, questo ragionamento fatto dal presidente dell'ABI, in una cosa è assolutamente incontestabile: i criteri per valutare le banche, se tu hai un unico vigilante che si chiama BCE, devono essere uguali in tutta Europa. Spesso abbiamo visto che le banche italiane venivano giudicate con, diciamo, in maniera più pesante rispetto a altre banche di altri paesi, francesi, tedeschi, che ottenevano voti migliori in maniera abbastanza spiegabile. Dopo il metro, la pubblicità, parliamo sempre di banche, ma del Monte dei Paschi di Siena. Domani si riunisce infatti il Consiglio di Amministrazione, chiamato a esaminare e deliberare in merito all'aumento di capitale, e il mercato teme che le cose non andranno benissimo. Ha perso il 7,52% il titolo, questo sul timore che il previsto aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo di euro possa avvenire con uno sconto del 40% sul prezzo teorico del titolo. E se fosse così, è chiaro che si va a vendere e portare il titolo a livelli dello sconto che si immagina avere. Sì, lo so che anche le banche hanno molte responsabilità, lo so, ma io con Patuelli abbiamo fatto una discussione di un quarto d'ora, non sono riuscito a tirar fuori una missione di 10 secondi che forse le banche non prestano sufficiente credito a chi ne ha bisogno. Ha detto che i dati sono tutti in crescita, va tutto bene. Io, sapete, no, come funziona con i banchieri, con i petrolieri delle volte. Comunque, meteo, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. ...17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la chiusura di borsa, e poi arriviamo al miliardo di euro anno che ci costano le regioni, l'aspetto politico delle regioni e gli stipendi dei consiglieri regionali, e poi l'appello, invito di cui si è fatto portavoce il Sole 24 Ore con il direttore Roberto Napoletano a Letta. Ogni euro risparmiato, anzi il 90% dei risparmi della spending review, da un lato, della lotta all'evasione, vada a ridurre il cuneo fiscale, le tasse in busta paga e in solo in maniera marginale il debito, perché se non riparte il PIL, qua il debito come rapporto non lo risolveremo mai. Dicevo la borsa, partiamo proprio dalle Monte dei Paschi, visto che abbiamo appena parlato di unione bancaria. Oggi non ci sono i colleghi di Radio Cuore Sole 24 Ore, e ringrazio allora il dottor Pierluca Beltramelli, che è responsabile dei mercati sviluppati di Aletti GSTL. Buonasera. Buonasera. A me fa sempre ridere questa cosa, mercati sviluppati, ma bisogna per forza dire così, no? Perché sembra che ci siano mercati sottosviluppati, boh. No, ci sono, anche perché c'è chi direbbe che, che tutti i mercati sono sottosviluppati con quello che abbiamo visto in alcuni casi. Comunque, boh, il Nasdaq sopra i 4.000 punti per la prima volta dal settembre 2000, mentre il Dow Jones continua a essere sopra i 16.000 punti. Andremo poi sui singoli titoli, voglio partire però dal Monte dei Paschi. Qual è la vostra paura? Che l'aumento di capitale arrivi a sconto del 40% sul valore di riferimento del titolo? Che ci fosse un aumento di capitale direi che il mercato lo sapeva già da tempo, quindi onestamente oggi probabilmente c'è una presa di beneficio generale sul settore bancario, non è solo il Monte Paschi, ma anche le banche diciamo popolari, le banche di medie dimensioni hanno subito un po' di retracciamenti dopo anche tra l'altro insomma, un mese consistente di rialzi anche del mercato italiano, quindi direi che sul Monte Paschi l'aumento di capitale non è una sorpresa e sicuramente prima si avranno i dettagli e prima il mercato potrà capire chiaramente gli sviluppi poi futuri. È inevitabile comunque che abbia bisogno di capitale. Quindi... No, sono 2,5 miliardi, ma da quello che capisco io mi sembra di vedere che cioè, voi scommettiate su un aumento di capitale comunque fatto su livelli più bassi di quello di riferimento. Oggi il titolo ha chiuso 19 centesimi. Beh, assolutamente. Sicuramente andrà a sconto, l'aumento di capitale andrà a sconto, mediamente insomma lo sconto è nell'ordine del 20-30%, ma l'importante è avere una visione chiara di quale sia l'entità dell'aumento di capitale e la tempistica anche dell'aumento, considerando anche che l'anno prossimo insomma tutte le banche europee saranno sotto la revisione della Banca Centrale Europea per la revisione della qualità del credito, quindi è fondamentale per il mercato, ma credo che anche per tutti gli investitori capire anche il tempo che verrà, quando questo aumento di capitale potrà essere fatto e l'entità soprattutto che sia certa. Ancora Banca Popolare meno 4,20%, Fiat invece meno 3,50%, oggi ha detto Fiat che non vi sarà nessuna offerta pubblica di Chrysler, che nessuna offerta pubblica di Chrysler sarà fatta entro la fine del 2013, è questo che ha un po' raffreddato gli animi? Sì, direi che la notizia di oggi è questa, quindi non ci saranno un IPO, il mercato nel giorno precedente aveva un po' scommesso su una chiusura anticipata di questa vicenda Chrysler attraverso un IPO, secondo noi la notizia è sicuramente questa che ha guidato il titolo, ma al momento direi che non ci sono grosse novità, comunque che fosse insomma difficile fare tutto entro la fine dell'anno, considerando che siamo ormai a fine novembre, ci sembrava anche già abbastanza scontato, quindi direi che è più in prospettiva capire poi quali saranno gli sviluppi tra Fiat e Chrysler, che probabilmente crea qualche incertezza sul mercato e quindi il titolo chiaramente è stato venduto. Ancora, Finmeccanica, qui qualche buona notizia è arrivata e devo dire che la Legna Armacchi, che è società di Finmeccanica, è stata selezionata dal Ministero della Difesa del Perù per fornire due velivoli da trasporto tattico, il C-27 e J Spartan. Sono comunque 100 milioni di euro di commessa e ben vengano. L'altro settore oggi che molto si è mosso è quello del lusso, Tod's più 3,92%, Ferragamo più 3,90%. Sì, assolutamente oggi c'è stato un ritorno di interesse sul settore, direi che su Ferragamo ci sono stati anche comunque dei numeri riportati che sono stati anche superiori alle attese, su Tod's invece i numeri che abbiamo visto alla fine non erano particolarmente sorprendenti, direi che c'è un po' più di attenzione anche perché comunque sta arrivando sul mercato una nuova società, ci sarà insomma l'IPO del gruppo Moncler e quindi questo probabilmente ha riportato un po' di attenzione degli investitori su questi titoli che comunque hanno già fatto tanto, sono su valutazioni decisamente elevate, ma comunque mantengono ancora dei tassi di crescita elevati rispetto al mercato. Allora, altri titoli, Exor più 1,14%, ST Microelectronics più 1,40%, Azimut più 1%, Snam più 1%, Campari più 0,70% come Ansaldo STS, tra chi va male invece anche UbiBanca meno 3,1% come la Pop Milano, ma già ne parlavamo, meno 2,20%, Mediaset meno 1,40%, World di Trifi meno 1,40, Enel meno 1,1 come Buzzi Unicem, migliori e peggiori in assoluto, Geox più 8%, Dimay Group più 8,33, Monriff più 6,20, Tamburi Investment più 4,93%, fronte opposto Monte dei Paschi meno 7,5% e poi Seat pagine gialle meno 4,30%, 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Grazie intanto al dottor Pierluca Beltramelli. Andiamo col traffico e poi iniziamo con l'ultima pagina che tiene assieme i costi, a mio avviso inaccettabili per le nostre regioni, con il bisogno di fare una spending review, di mettere questi soldi per ridurre le tasse in busta paga. Perché in busta paga? Perché c'è un vantaggio diretto per il lavoratore dipendente, che tanto essendo in busta paga non evade, e anche in qualche modo per il datore di lavoro. Cioè, se c'è un modo per far ripartire i consumi è alleggerire le tasse in busta paga, soprattutto sulle buste paga basse, chiaramente, non su quelle da migliaia e migliaia di euro. Traffico. Focus Economia. Allora, ampie dosi di Malox, perché? Perché adesso parliamo di quello che ha scoperto l'economista Roberto Perotti. Scoperto, si fa per dire, si è messo lì a guardare i bilanci dei consigli regionali del 2012 e ne ha trovate nel giorno in cui, tra l'altro, scopriamo, anche qui per caso, che il buco nel bilancio di Roma Capitale, nella settimana in cui il Consiglio Comunale deve approvare il bilancio di previsione 2013, è un buco talmente grande da rappresentare una questione nazionale. 816 milioni di euro di rosso, lo ha lanciato l'allarme il sindaco Ignazio Marino, che si è anche preso una gomitata in testa da un consigliere di Fratelli d'Italia, Dario Rossin. Per evitare l'intervento del prefetto, la scadenza è il 30 novembre, però bisogna capire come farà Marino, che ha ereditato, va detto, parte di questo buco da Alemanno, a trovare soluzioni, da un lato. Dall'altro però c'è la vicenda ATAC. Se non fosse serissima come storia, perché sono soldi dei cittadini italiani, sarebbe veramente la tragicommedia. Allora, pensate che è spuntata una finanziaria a San Marino attraverso cui alcuni manager gestivano il business delle consulenze. Attraverso questa società, tra 2007 e 2010, i due manager dell'ATAC, Gioacchino Gabutti e Antonio Cassano, nominati da Veltroni e confermati da Alemanno, la moglie di Gabutti era consulente dell'ex ministro Maroni quando era ministro degli interni, Gabutti è anche molto vicino a Gianni Letta, insomma, hanno depositato contanti e costituito partecipazioni in questa società a San Marino. Voi dite, vabbè, magari era un'attività diversificata. Eh no, perché attraverso questa finanziaria i due manager hanno partecipazioni occulte in svariate società, cioè usavano quella come società finanziaria che a sua volta poi entrava in altre società. Tra queste la Pragmata, che nel 2007 ottiene da ATAC un contratto di consulenza per valutare il lavoro dei manager dell'ATAC. Ma pensa che bella questa, cioè tu crei una società a San Marino che poi si compra un'altra società per valutare il lavoro di manager come te. Cioè Gabutti e Cassano hanno incassato soldi per farsi valutare dalla società, questo è veramente il massimo. E poi tante altre consulenze, compresa l'organizzazione di eventi e convegni, per cui i soldi poi tornavano a loro. Gabutti dichiara redditi per 700.000 euro, Cassano per 300.000. E faccio notare che comunque in 10 anni l'ATAC è costata ai contribuenti romani 6 miliardi e 400 milioni di euro e non ha mai chiuso un bilancio inutile. Professor Perotti, buonasera. Buonasera. Con lei parliamo delle regioni, mi dia ancora qualche minuto, perché lei ha scoperto che ci costano 1 miliardo all'anno i consigli regionali. Ho il GR, la riprendo dopo il GR, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. No, non è Cassano il calciatore, GR. Focus Economia. e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo già molti messaggi al 349-238-6666 sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Però come si fa a spendere 1 miliardo di euro l'anno per i consigli regionali, non per il funzionamento delle regioni, attenzione, che hanno dipendenti, segretari, amministrazione, per i consigli regionali? quindi dove ci sono i consiglieri regionali. Lo ha scoperto, si fa per dire, guardando i bilanci, l'economista Roberto Perotti, che insegna economia politica all'Università Bocconi di Milano. Professor Perotti, buonasera di nuovo. Buonasera. Allora, in media, se ho ben capito, ogni consigliere costa, sono 1117 i consiglieri regionali in Italia, viene pagato in media 200.000 euro, però lei intanto ha scoperto delle differenze enormi tra regione e regione che, permetto di dire, nulla c'entrano con l'efficienza né con la produttività e neanche con le caratteristiche della regione. Perotti. Sì, è molto difficile misurare la produttività di un consiglio regionale, anzi credo sia impossibile, ma però giusto per dare un'idea, in Emilia in media i consiglieri regionali costano 120.000 euro, mentre in Sardegna 240.000, in Lazio 270.000, Calabria 280.000, quindi sembra che una regione che normalmente si considera abbastanza ben amministrata come l'Emilia lo si possa fare amministrarla bene anche compensando i consiglieri regionali una cifra ragionevole come 120.000 euro. O forse è proprio per questo che viene ben amministrata, anche perché i consiglieri regionali costano meno, cioè tra 118.000 euro di un consigliere regionale, parliamo dello stipendio, hai 280.000 euro in Calabria e Lazio 270, Piemonte 240. Poi ci sono i contributi ai gruppi consigliari, dove qui si annidano spesso le spese oggetto dei vari scandali, delle inchieste, della magistratura, vedi Lazio, Piemonte, Emilia, Romagna, Liguria. Quanto valgono complessivamente i contributi ai gruppi consigliari per fare attività politica? Poi in realtà abbiamo scoperto che si fa di tutto, no? Dall'assessore molisano che frequentava e caricava nelle spese un nightclub romano, all'assessore alla cultura abruzzese perché si pagava alberghi, ristoranti, champagne, e poi i nuovi capigruppo della regione Emilia Romagna che devono chiedere 35.000 voci di spese costate 3 milioni di euro in 19 mesi. Ma comunque, e quanto costano complessivamente i contributi? Sono 96 milioni, quasi 100 milioni all'anno in tutta Italia. Però anche qui ecco, la mia impressione è che ci sono state, sai che è stata introdotta il dovere di rendicontazione di tutte le spese, no? Sì, questo è pazzesco. Ma il problema non si può risolvere così, perché se si guarda i rendiconti, io sono andato a guardarmi un po' dei rendiconti che sono, devono essere anche messi online, non tutte lo fanno, ma spesso viene fatto. Le voci sono molto generali, tipo rappresentanza, eccetera, eccetera. Quindi lì, finché non si mettono online tutte le ricevute di ogni rimborso, non se ne uscirà. E la cosa migliore, credo, anzi la cosa più semplice, è semplicemente eliminare questi contributi ai gruppi consiglieri. Sì, anch'io non capisco perché. Allora, tu vieni pagato e ci mancherebbe. Meglio 120.000 euro come in Emilia Romagna che 280.000 euro come in Calabria. Però che tu o in Liguria, perché non citavo la Liguria, 334.000 euro, ora sfido chiunque di voi a dimostrarmi che un consigliere regionale ligure vale tre volte un consigliere regionale dell'Emilia Romagna. Poi in queste, a questo si aggiungono appunto i contributi ai gruppi consigliari, anche qui ci sono differenze molto forti, perché nel Lazio si spendono 13 milioni di euro l'anno, in Sicilia 12 milioni, in Lombardia 11 milioni, in Toscana non si capisce perché 716.000 euro, praticamente siamo a meno di un decimo, in Trentino 780, poi le regioni spendono anche 170 milioni di euro in vitalizi e pensioni, e poi c'è un'altra voce, altre spese per 160 milioni. Ma cosa vuol dire altre spese, per ottimi, scusi? Queste sono tutte altre spese, incluse gli acquisti di beni e servizi, spese di manutenzione dei locali, dei computer, tutto, spese di rappresentanza, consulenze, lì ci sono tutte le altre spese. Ecco, se poi andiamo a vedere la spesa totale, cioè che va a vedere lo stipendio del consigliere, ma poi ci mette dentro anche gli emolumenti e altre voci, beh, qui la cifra arriva a 875.000 euro per consigliere regionale, giusto? Quindi sono circa un miliardo in totale, quindi circa 875.000 euro per il... Però anche qui vedo delle differenze pazzesche, cioè dai 410.000 euro del consigliere complessivamente dato, quindi non solo lo stipendio, della Val d'Aosta al 1.700.000 euro in Sicilia. Sì, la Sicilia, diciamo, è un caso. Vabbè, 1,5 milioni in Calabria, se vuole, però ti rendo più facile. No, queste sono delle regioni, c'è poco da fare, lì bisogna fare, prendere qualche azione, perché sono sempre le stesse regioni. Insomma. Sono sempre le stesse regioni, questo al di là che uno abbia idee politiche in un senso o nell'altro, Calabria e Sicilia sono sempre in testa quanto a spese e in coda quanto a efficienza, mi dispiace dirlo. Che cosa che impatto ha questo però sui cittadini? Perché la cosa forse più significativa per Otti è quanto costa poi ogni consigliere regionale a me abitante di quella regione. Sì. Beh, qui dipende ovviamente dalla popolazione. In Lombardia costa 7 euro a persona mantenere il consiglio regionale, incluse anziani e bambini. In Emilia anche lì 7,5 euro, e poi ci sono regioni, Val d'Aosta, che secondo me non dovrebbe permettersi un consiglio regionale, costa 112 euro a persona, quindi per famiglia, diciamo una famiglia di 4 persone spende circa 450 euro all'anno solo per mantenere il consiglio regionale. E poi ci sono anche regioni più grandi, come la Sardegna, dove costa 45 euro a famiglia, quindi quasi 200, 45 euro a persona, quindi 200 euro a famiglia. Il consigliere regionale valdostano, sì, costa ai cittadini, agli abitanti della Val d'Aosta 120 euro a persona? Sì, all'anno. All'anno, e quello lombardo emiliano 7 euro. Ora io vorrei capire. Lì ovviamente c'è il fatto che la Val d'Aosta ha 127. Ho capito, ma avrai anche i consiglieri in proporzione, no? Cioè, proprio in proporzione, no, che la Val d'Aosta ne ha 35 e la Lombardia ne ha 80, anzi in proporzione. Allora la proporzione non c'è. Vabbè, perfetto, anche questo. In Sicilia comunque 31 euro, in Calabria 40 euro sempre a cittadino. Come vengono usati questi soldi? Allora, con massimo rispetto, perché ci sono molti consiglieri regionali che lavorano seriamente e soprattutto correttamente, con la massima trasparenza, io vorrei farvi riascoltare il mitico, se fa per dire, Batman Fiorito, che tuttora parla. Lui ha concordato con la Corte dei Conti di restituire 1,090,000 euro illecitamente sottratti alle casse regionali. Ve lo ricordate? Quello che comprò il SUV perché nevicava a Roma. Sentite come ha spiegato nel settembre del 2012 il meccanismo dei contributi ai gruppi politici dentro le regioni, ai gruppi consigliari. Ogni singolo consigliere, diciamo, ha una dotazione di circa 100.000 euro. E la moltiplichi per tre, per le quote che, diciamo, venivano destinate al sottoscritto, quindi sarebbero stati in 3 anni 900.000 euro. Per nostra regola, da sempre, in regione, chi è capogruppo e presidente della commissione bilancio, gli viene data una dotazione superiore in virtù del ruolo che ricopre. Noi vengono versati dall'ufficio di presidenza i soldi ai gruppi regionali. Questi poi hanno una funzionalità relativa alla conoscibilità dei gruppi, alla capacità di fare azione politica sul territorio. Vabbè, a rendere note le leggi che facciamo. Ma lei, e sono questi, mi scusi, organizzati su... secondo il rendiconto che poi noi ogni anno dobbiamo fornire. C'è una legge regionale che prevede che quel rimborso va versato all'interno del gruppo e il gruppo sia tenuto a restituirlo sullo stipendio dei consiglieri. Quando legge quelle cifre, sono comprensive del sottoscritto, che ne ha prese alcune di più, ma di tutti i consiglieri regionali che ogni mese, con questo tipo di attività prevista dalla legge, sul loro conto personale ricevono 4.190 euro per un rimborso forfettario, per il quale bisogna solo dire li abbiamo spesi per le attività rendicontate dalla regione. Sulla parola. Sulla parola. No, dico, Perotti si capisce molto di più dall'italiano, dal lessico, che da tante analisi delle volte, perché Fiorito dice abbiamo deciso, è nostra consuetudine, abbiamo votato la legge regionale, cioè per cui non c'è nessun criterio economico, ma semplicemente uno si vota una legge che fa comodo a tutti, cioè questo è devastante sul modo in cui vengono distribuiti i contributi ai gruppi consiliari. Fermo restando che io sarei per eliminarli, ma perché un partito che è in regione deve avere dei soldi dei contribuenti per farsi conoscere? Se l'hanno votato vuol dire che l'hanno già conosciuto, basta, fai fundraising, vai in giro a chiedere ai tuoi sostenitori i soldi come si fa in altri posti, cioè dobbiamo pagare anche il consigliere regionale su questo. Comunque la cosa interessante è appunto dove anche lei si è arenato, cioè la capacità di valutare l'efficienza di un consiglio regionale. Le chiederei una risposta su questo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms e Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Abbassare tutte più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre più auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre più. Da nord a sud, la metà dei 20 consigli regionali italiani sono sotto inchiesta per spese gonfiate o truccate, non per altre malversazioni. Su 1.356 tra presidenti, assessori e consiglieri, 280 sono stati indagati negli ultimi tre anni. Le indagini sugli anni precedenti devono ancora essere avviate. 62 in Lombardia, 20 in Friuli, 10 nel Lazio, 13 in Calabria, 53 in Campania, 1 in Puglia, ma in questo caso per appalti. 43 rinviati a giudizio in Piemonte, dove spese per 1.300.000 euro sono risultate irregolari. 33 i consiglieri sardi che dovranno presentarsi davanti al giudice con accuse di peculato, truffa e concussione. 11 consiglieri liguri coinvolti nel caso spese pazze, e poi appunto l'assessore molisano nel night club con la cultura abruzzese che si pagava alberghi, ristoranti, champagne, e i 9 capigruppo della regione Emilia Romagna. Professor Perotti, a ascoltare quello che il Sole 24 Ore Online ha pubblicato qualche giorno fa, è una banalissima statistica, sembra che l'Italia non sia così lunga, anzi sia molto unita, sia già tutta omogenea, o no? Sì, secondo me questa è una battaglia persa, nel senso No, non mi dica così, perché lo scrivono anche gli ascoltatori, ma noi non vogliamo mollare. Perché no, è una battaglia, secondo me, persa, loro sperano che noi ci dimentichiamo, prima o poi ci stufiamo e uno ritorna a fare quello che c'era prima. No, è una battaglia persa in questo senso, che finché c'è appunto il rimborso ai gruppi consigliari, il contributo ai gruppi consigliari, comunque lo si voglia mettere, ci sarà sempre un modo per fare un convegno inutile a cui invitare la moglie dell'amico come principale redattore e fargli avere un po' di soldi, e poi lo si fa passare per un convegno di grande importanza sociale. La magistratura non può decidere che convegno è importante. Quindi sì, certo, finché ci sono i contributi, magari qualcuno non li userà per andare al night club, però appunto li userà per fare delle cose inutili. Quindi l'unica soluzione è eliminare i contributi e votarli a zero, basta. Sì, allora aggiungo io, andiamo sulle soluzioni concrete. Eliminare i contributi, che non si capisce perché nel 2013, usa Facebook, usa Twitter, usa Internet, usa quel cavolo che vuoi, ma perché devo pagare la tua attività politica io a te che ti hanno già eletto? Posso capire quando ci sono le elezioni e tu vuoi essere messo sullo stesso piano i contributi, sennò vincono solo i ricchi, va bene, ma una volta che ti hanno eletto, basta. Ti hanno già eletto nel consiglio regionale, sei già consigliere. E poi l'altra cosa, però, che propongono molti ascoltatori, visto che si parla spesso di spese standard per la sanità, beh, non ci può essere uno stipendio standard, cioè decidiamo che un consigliere regionale deve guadagnare come il più virtuoso. Come si fa con i costi standard? Emilia Romagna, 120.000. No. Anche questo però è interessante, perché questo è quello di fatto che ha stabilito il governo Monti, no? Sì. Però sto vedendo appunto cosa è successo dopo questo. Hanno cambiato molte le regioni, hanno quindi cambiato la struttura delle retribuzioni, perché di fatto certo, però quello che è successo è che molte, parecchie, anzi quasi tutte le regioni hanno diminuito la parte l'indennità, che è quella parte tassabile, e hanno aumentato quella che si chiama diaria, rimborso per le spese di esercizio dei funzioni del mandato, eccetera, che di fatto sono dei rimborsi forfettari, quindi non richiedono rendicontazione, quindi sono di fatto un reddito non tassabile. E alla fine in alcune regioni quello che si porta a casa il deputato dopo la riforma Monti è addirittura più alto di quello che si portava a casa. In quali regioni, mi scusi? Adesso devo controllare, mi ricordo, mi sembra la casa di Basilicata, ma tra qualche giorno sarò più preciso e uscirò con un articolo su questo. Quindi in tutte è aumentata la parte non tassabile, è diminuita la parte tassabile, quindi il netto non è cambiato molto, in alcune addirittura è aumentato. Sì, ecco, quando sento queste cose è chiaro che lo scoramento prende, perché se nemmeno, nemmeno la legge fatta dal governo Monti è servita, perché la giri abbassando la parte fissa, si direbbe in gergo aziendale, aumentando quella variabile, cioè insomma quella tassata la abbassi e poi altri contributi li aumenti, non ne usciamo. Su questo il nostro appoggio solidale va a Carlo Cottarelli, che ha detto oggi penso che i benefici della spending review arriveranno già dal 2014. Questo è l'obiettivo principale di questa operazione di riduzione degli sprechi, consentire una riduzione della tassazione sul lavoro. Non credo occorrerà attendere il 2015, credo che nel corso del 2014, questo è il piano di lavoro, ci sarà già una possibilità di ridurre gli sprechi e ridurre la tassazione. Ci vuole un po' di tempo per studiare la materia da vicino, ma non si tratta di aspettare il 2015, qualcosa potrebbe avvenire prima. Allora, però ti mi dia nell'ultimo minuto che abbiamo un po' di speranza, perché poi qua parliamo, poi eliminiamo i contributi ai gruppi consigliari. Sì. Proviamo a mettere uno stipendio standard, tutto incluso, però non che sì, mi fai fuori, mi freghi con la parte fissa e variabile. E questo potrebbe bastare? No, perché per avere qualche proposta politica, così qualcuno magari ci ascolta e va. Prego. Diciamo che c'è un risparmio effettivo che c'è anche nel Parlamento, che però si manifesterà tra tanti anni, cioè la riforma delle pensioni, la pensione in vita d'Italia, quella è stata qualcosa di effettivo, però si manifesterà tra tanti anni. Quindi quello da fare secondo me è eliminare i contributi, mettere una remunerazione, chiamiamola remunerazione, reddito, stipendio, quello che si vuole, ma totale, unica, 10.000 cose, esatto. Indennità, salario, eccetera. Poi bisogna ridurre le spese e pubblicare online le ricevute dell'incontro al vertice, no? Tipo Yalta, sì, tra ecco, Stalin, diciamo, Roosevelt e Churchill con le aragoste, prego. Se già si eliminano i contributi ai gruppi per consigliare, quello già dovrebbe essere. È vero, perché per i soldi poi vengono dirottati dal consiglio regionale, quando va in visita alla regione di vicina e mette la ricevuta del tasso. Esatto. E poi bisogna ridurre le spese per il personale, tutte le varie spese c'è da lì, però bisogna andarci regione per regione, metterci in mano. No, ma interessavano i consigli regionali in questo caso. No, cioè, ma anche nei consigli regionali, sì, la c'è spesa maggiore è questa spesa, altre spese, diciamo. 160 milioni, capirai. Dove dentro c'è tutto. Bisogna... No, questo lo dico a chi ci ascolta, così magari se qualcuno lo proporrà alle prossime elezioni politiche, uno si annota, vediamo chi lo propone, vediamo se viene votato, vediamo se riusciamo a passare da sudditi a cittadini come scatto di qualità. Grazie Roberto Perotti, economista. Noi quando avrà la prossima parte dello studio la riavremo in trasmissione. Da Sebastiano Barisoni l'augurio a voi in ascolto di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.